Domenica 13 novembre torna per la terza edizione la festa Oltre il Ponte, festa di strada partigiana in Bolognina. Per parlare di questa iniziativa siamo in collegamento con Marco del Circolo Granma, a cui do il benvenuto su Radio Città Fujiko. Ciao Marco, buon pomeriggio. Ciao, buongiorno a tutte e a tutti. Marco, inizierei chiedendoti di raccontarci di questa edizione di Oltre il Ponte. Allora, questa è la terza edizione di Oltre il Ponte, che è una festa di strada partigiana tra via Ferrarese e via Algardi, all'inizio di via Ferrarese, ed è una festa organizzata dal Circolo Granma per la ricorrenza della battaglia della Bolognina. Festa che porta da tre edizioni ormai letteralmente in strada tutta una serie di rivendicazioni. Perché nasce questa festa Oltre il Ponte? Allora, questa festa nasce appunto a novembre dell'anno scorso, in quanto come associazione ci siamo organizzati e detti che era importante riportare in strada i valori dell'antifascismo e della resistenza, e quindi nelle scorse edizioni abbiamo sempre mantenuto questo tema come centrale e soprattutto sull'attualizzazione delle lotte antifasciste e dei valori della resistenza. Quindi quest'anno crediamo sia ancora più importante, visto il governo che si è da poco insediato, vicino alla ricorrenza del centenario della marcia su Roma, che definiamo un governo di estrema destra e post-fascista. Quella di domenica 13 sarà una giornata ricca di socialità, incontri, musica. È già uscito l'evento, ti chiedo però di magari anticiparci il programma di questa giornata. Sì, stiamo concludendo il programma, che è già definito dall'inizio alla fine. La festa durerà tutto il giorno, inizierà alle 10 del mattino con il classico ritrovo con il bianchetto antifascista al Burnout. Seguiranno un momento musicale a cura di Marley Session, che è un'associazione di giovani musicisti, che porterà alcuni dei loro artisti su un palchetto secondario. Da lì proseguiremo con il pranzo e un dibattito e la presentazione di un nuovo libro di Santo Peli, che è uno dei maggiori storici italiani, che parla di resistenza e lotte partigiane, e quindi faremo una tavola rotonda che parlerà della battaglia partigiana a 360 gradi, non solo nel nostro quartiere a Bologna, ma anche di tutto il movimento in Italia. A seguire avremo i ragazzi dell'associazione Zoo Palco, sono dei ragazzi che vengono da tutta Italia e sarà uno spettacolo di slam poetry. A seguire Ettore Castagna con Carmine Torchia, che porteranno sul palco l'Endless Tour con musica tradizionale calabrese e non solo, e di canti antichi e che rischiano di essere dimenticati. Avremo poi La Guerra di Antonio, che è uno spettacolo musico-teatrale di Andy Rocchi, un artista romagnolo, che racconterà in musica le lotte e le rivoluzioni del primo Novecento attraverso delle poesie di Antonio Gamberi e non solo. Poi avremo i ragazzi del Binario 69, che saranno sul palco principale di Oltre il Ponte con la Jam Session aperta a tutti, che è la Jam Session che viene in trasferta da Oltre il Ponte dal Binario 69. Dopodiché avremo in chiusura per il concerto della serata i Bell Ringers, un gruppo storico di Bologna che porta sul palco tra i migliori musicisti che abbiamo in città. In chiusura, per non farti mancare niente, DJ Luigi, che ci terrà compagnia durante l'ultima parte della festa. Oltre a questo, durante la giornata ci saranno i laboratori per bambini con uno spettacolo di burattini a cura del teatrino di carta, e altri laboratori sempre rivolti ai bambini per tutta la giornata, e uno spazio di creatività dove ci saranno dei laboratori di grafica per piccini ma anche per adulti a cura di Pennelli Ribelli e delle installazioni artistiche a cura del collettivo TIS. Marco, io ti ringrazio e chiaramente invito anche tutte e tutti ad esserci domenica 13 novembre in Bolognina per Oltre il Ponte, la festa di strada partigiana. Grazie mille. Grazie a voi, vi aspettiamo domenica.